una storia nata in un tempo, non so a quale età, a quale mia età, di un amore strappato dal vento senza alcuna pietà. È l'amore del sole una nuvola, che strana realtà, che fantasia, così dolce la nuvola soffice e tanta poesia. Era il sole più in alto di tutti, la vide così, la osservò, splende tenero il cuore dell'astro e si innamorò. Vieni a me, disse il sole, per te io avrò e ti darò tanto amore e caldo per vivere finché sarò. Una luna gelosa al vento gli raccontò, si confidò, quella nuvola bianca adesso fastidio mi dà. Soffio il vento cinico e freddo e l'allontanò sempre più in là, fino a scioglierla in acqua di pioggia, poi se ne andò. Vide il sole sgomento, non c'era più, non era là, si tuffò lasciando al mondo l'oscurità. Così triste la storia d'amore, resto si sa, lo si sa già, l'acqua di nuvola bagna un germoglio e la vita gli dà. Poesia e fantasia per te io avrò e ti dirò, sarai tu la mia storia e il ricordo fin quando sarò. Il sole incendia da sempre il mare a quell'ora, sempre a quell'ora, e l'amore infiamma i ricordi nei momenti di sera. Dalla nuvola il germoglio ha preso la vita che era finita. Noi prendiamo la strada se piena oppure in salita. E così nei ricordi di storie e bruciori passati, ormai andati, superiamo le angosce di amori sperati e mai avuti. Come il sole ogni giorno riprende il suo cammino, così io riscopro la vita e ritorno bambino.